Imbarbarimento, imbarbarimento, imbarbarimento, imbarbarimento, imbarbarimento, imbarbarimento, imbarbarimento, imbarbarimento, imbarbarimento, imbarbarimento, imbarbarimento. Cambio il colore delle palle degli occhi che mi portano male, che funzionano male, per contemplare un doppio fine nascosto, anche quando non vuole, anche se non appare. E mi concentro perché un raggio di sole possa togliermi il segno immondo del mio costume, che non arrechi più fastidio alla vista le persone coinvolte nelle mie apparizioni. Che macchina, sono salito per un giro di prova. Che macchina, poi mi ha comprato e mi ha portato via. Sigillato in un apposito vano, lo abbandono soltanto in orari prestabiliti, indifferente al tempo e alle stagioni, vecchio con le offerte del reparto telefonini, così che io possa rinunciare al giorno, alla notte, ai disturbi interni, alle emozioni, ma anche una breve interruzione di corrente può crearmi un disagio. Che abita, tutto comodamente sul telecomando. Che abita, premo un pulsante in un istante e cambio terapia. Che abita, sono attrezzato anche per l'accoppiamento. Che abita, ma questi corpi non li voglio più qui. Ingrandito ogni mezzo di locomozione per migliorare le mie relazioni, come il pavone che corteggia la sua donna, ingigantisco la stazza nelle giuste occasioni. Prevedo solo l'ottimizzazione del profitto tra i comportamenti a disposizione, non sentimenti di affezione che minacciano la concorrenza e la competizione. Che favola, ho annientato ogni dubbio della sera. Che favola Attribuisco un fine ad ogni tua compassione. Favola, che favola, so tutto sull'altezza del mio tacco a spillo. Che favola, e prendo parte della ripartizione. Tormenti e nuovi tormentati, mi veggio intorno come che io mi muova, e che io mi muova, e come che io guati, io sono al terzo cerchio della piova. Eterna maladetta, è fredda e greve, regola e qualità mai non le innova. Grandine grossa, acqua tinta e neve, per l'aereo tenebroso si riversa. Pute la terra che questo riceve, Cerbero fiera, crudele e diversa, con tre bocche caninamente latra sovra la gente che qui vi è sommersa.